Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Mamma, mamma, mamma, che freddo che fa, che tempo da lupi. Adesso sì che possiamo dirlo anche noi qui in Sicilia, che c'è l'inverno, che fa freddo, che andiamo in giro tutti imbacuccati, che andiamo in giro tutti raffreddati. E io è da qualche mese che non ritrovo più la mia voce, l'ho persa, non so più dov'è, non so più qual è il mio timbro, perché sono sempre raffreddata e la mia voce è proprio camuffata, fa pure rima. Comunque sia, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di CRM Happy Radio, un nuovo appuntamento con Déjà Vu, quello che vi apprestate a seguire per questo martedì del 7 febbraio, freddissimo devo dire e caldissimo musicalmente parlando invece, perché oggi abbiamo un sacco di novità da ascoltare, un sacco di bella musica anche dal passato che spero anche questa mattina mi aiuterete a selezionare chiamando ai nostri numerini che vi ricordo subito, il 335-56-37251, il numero per gli sms, poi non dimenticate che c'è anche il numero telefonico fisso, lo 0921-92-32-92. Mi sento un po' una vecchietta questa mattina con questa voce qua, però veramente mi sono proprio presa un sacco di influenza quest'anno, eh? Vabbè, non ci siamo abituati noi a queste temperature, quindi succede magari che ci dimentichiamo di vestirci un po' più pesantucci e ce la becchiamo tutta, pazienza. Ok, intanto stavo ricordando i mille modi per interagire con me, per contattarci. Vi ricordo anche il nostro sito, il www.crmepiradio.it. Da lì fate le vostre segnalazioni, anche c'è la finestrella proprio apposta per queste cose, e poi potete anche dare una sbirciatina qua e là. Ok, www.crmepiradio.it, il nostro sito dove ci seguite anche in streaming, e poi il nostro profilo Facebook, interagite anche da lì, vi raccomando, eh. E quindi, detto tutto questo, seguiamoci il prossimo singolo, che ne dite? Seguiamo Bruno Mars insieme a Diggy Simons, Click Clack Away. If I was broke, I'd give you half of nothing. I'll give it all, then I give you more. I'm no decorator, but the writing's on the wall. Winter, summer, fall, April, May, and June. You shot me through the heart, but I don't have a wound. You got a good aim, cause I could just wanna move. When it comes to relationships, I don't have a clue. Love at first sight, I don't know, I assume. You put a hit on me, bada bing, bada boom. If this is pain, let me hurry up and suffer. What doesn't kill me should make my love tougher. I'm tough now, what's up now? Fire at me, I swear I won't duck down. Well, you had me at all. You ain't have to shoot, girl, you had me from your jaw. You shot me through the heart, staring in your eyes. So I might die a happy day today. Just empty out your barrel, girl, it's alright. Click, clack away. Click, clack away. Click, clack away. Click, clack away. Go ahead. Every breath, call 911, Mary Cleff. No need to ask if I'm ready, yes. I go get my tux, and you go get your dress. And we gon' do it big, although we just met. I was just being fresh, yeah, I know I'm a mess. But I like spontaneity, continuity. Let it flow, just you and me. And I'm not pressing charges. Don't want you to ricochet and hit another target. You take me to the edge, right up to the margin. All I see is fireworks, I can feel it sparking. Hope you keep me at the center of your bullseye. And you know it's more benefits with full time. You are everything and more. You ain't have to shoot, girl, you had me from your draw. You shot me through the heart, staring in your eyes. So I might die a happy day today. Just empty out your barrel, girl, it's alright. Click, clack away. Click, clack away. Click, clack away. Click, clack away. Go ahead. Click Clack Away. Click Clack Away, carina. Bruno Mars insieme a Diggy Simons su CRM Piredio all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. Non abbiate paura, sono io e questa è la voce mia, per adesso è così, pazienza. Intanto facciamo una cosa bella, fra poco un'altra canzone di quella, di quelle straordinarie. CRM Piredio. Innamorarmi quando non arrivi mai, il tuo portone, poi vederti passare e nascondermi fra le persone, senza avere il coraggio di dirti una parola, poi tornare a casa per sognarti ancora. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male, ho voglia di sputtanarmi e di soffrire come un cane, ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono sicuro sai. Sicuramente molti ricorderanno questo successo di Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi, bello questo momento, no? L'innamoramento, a chi non piace innamorarsi? Siamo tutti sempre propensi, anche quelli che dicono di non volersi innamorare, di voler stare tranquilli, invece poi magari se si innamorano sono anche felici, no? Direi. Ok, nella vita d'altronde si vive soprattutto di amore, E arrivano invece i Litfiba che ci raccontano del loro viaggio in musica per quanto riguarda la loro carriera attraverso questo nuovo singolo, La mia valigia. La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zip, sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. Casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabili note, parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Viaggiare e sognare è un atto d'amore. dice il vento, pronta a partire, pronta a tornare, pronta a deviare di terra e a deviare di mare, la valigia è il mondo, è il mondo, è il mondo. Ancora buongiorno, siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano per questo martedì del 7 febbraio. Ci ritroviamo qua fino a mezzogiorno insieme in replica la notte, non dimenticate appunto l'appuntamento, scusate il gioco di parole, proprio durante la notte lo potete seguire in replica e quindi una buonanotte anche a tutti i nottambuli che in questo momento sono all'ascolto di CRM Happy Radio. E poi non dimenticate che le repliche di qualsiasi programma volete lo potete trovare in podcast al nostro sito www.crmpiredio.it. E oggi dobbiamo fare gli auguri a chi? Niente poco di meno che a Vasco Rossi. Vasco Rossi che compie 60 anni e sono tanti, non li dimostra. E stavo guardando qui sul web una foto di lui da giovane che non è niente male, eh? Vasco Rossi, buon compleanno a te, anche se non ci senti. Ma non si sa mai, noi te li facciamo lo stesso qui in diretta. Intanto ci godiamo questa bellissima canzone. Se fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stato per me adesso, forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me adesso, sarei sposato. Se fossi stato, non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui. Perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. ci siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è, chissà cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa diventò, cosa diventò, quella voglia che non c'è più. Cosa diventò, cosa diventò, che cos'è che ora non c'è più. Cosa diventò, cosa diventò, quella voglia che avevi in più. E cosa diventò, cosa diventò, e come mai non ricordi più. Vasco Rossi, che è nato a Zocca, Modena, il 7 febbraio del 1952, compie dunque oggi 60 anni, auguri ancora una volta a lui, una vita sempre al massimo, sopra e sotto al palco, musica con dischi sempre in top 10, grandi amori e collaborazioni importanti, non ultima con Patty Pravo. Ha scritto anche un libro, Fate quel che volete, ma fatelo bene, e questo più o meno il titolo. E poi tanta attività su Facebook ultimamente da parte sua, proprio il web oggi lo festeggia con una maratona, possiamo seguirlo dunque su internet. A Zocca, il paese dell'Appennino modenese, dove Vasco è nato e dove vive, è previsto un grande ritrovo di fan, non frenati neppure dalle nevicate degli ultimi giorni. Le varie iniziative per celebrare il Blasco dureranno 3 settimane e termineranno il 26 febbraio. Il web lo festeggia con una maratona in streaming TV, condotta dall'amico Red Ron su Roxy Bar TV. È rilanciata da centinaia tra web TV e videoblog. Comunque, Vasco Rossi l'abbiamo sentito stamattina con Liberi Liberi, un grandissimo successo di tanti anni fa, ma torniamo alla musica di oggi con Lil Wayne e Bruno Mars. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. See the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. And I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall. You've been my only friend. Yeah. You told me that can understand the man I am. So why are we here talking to each other again? I see the truth in your lies. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Through my rise and fall. You've been my only friend. My only friend. They told me that they can understand the man I am. They so can't understand. Here Miss talking to each other again. Wow. Me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man in the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. through my rise and fall. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? BP, looks like I did take one to Mars this time. So why are we talking to each other again? M Happy Radio. But I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like a physical fitness. Up and down, like the stock market now. Baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Per combattere il freddo non c'è niente di meglio che una canzone, un singolo, insomma, che faccia saltare e che faccia ballare, come quello che abbiamo appena sentito di Bob Sinclair, Rock the Boat. Intanto parliamo di cinema, torna Sharon Stone, torna con il suo sex appeal. A 20 anni da Basic Instinct, Sharon Stone torna a sedurre nel sexual thriller che si chiama Attachment. L'attrice 54enne, non sono pochi, ma lei se li porta troppo bene, non ha perso dunque l'istinto primordiale ed è pronta a vestire i panni di una donna sposata che intrattiene una relazione con uno studente nella nuova pellicola di Tony Kane, anzi Tony K, Key, insomma, non so come si pronuncia, fate un po' voi. E nel film, appunto, Attachment. L'errore di una notte in questo film le costerà carissimo, perché il ragazzo invaghito perdutamente da lei comincerà a tormentarla. Questa è un po' la trama di questo film. Una carriera che torna a brillare dopo un periodo di pausa. La Stone ha appena terminato di girare il film d'azione The Mule ed è attualmente impegnata sul set di Lovelace, insomma molto impegnata, devo dire, molto indaffarata. Il film sulla vita della pornostar Linda Lovelace, in cui interpreta la parte della madre della diva, mentre ad aprile comincerà a girare proprio questo film Attachment di cui parlavamo. È scritta da Christopher Denham e la pellicola racconta di una notte d'amore tra una donna matura e uno studente, con conseguenze impreviste per la donna. Come dicevamo prima, il ragazzo inizierà a uscire con la figlia e a perseguitare la sua famiglia. Insomma, un incubo di film. Se vi piacciono questo genere di film, allora sappiate che c'è in programmazione proprio questo film insieme a Sharon Stone, super sexy ancora una volta nonostante la sua età, 54 anni, se ci arrivo io così, devo dire veramente grazie. Intanto dico grazie a Patrizia che questa mattina ci segnala Micaela con il singolo Fuoco e Cenere che sentiamo subito, e come Patrizia anche voi potete benissimo richiedere le vostre canzoni al 3355637251. Mi giro e poi mi guardo intorno, svengo, riprendo i sensi quando viene giorno, petali di vita, sfoglio sopra il tempo, ora che è finita, me ne rendo conto, ora che le mie mani cercano il tuo viso, corre e stringe l'emozione in un istante, vola quel desiderio vivo ed accecante, adesso che senza te io non respiro più, ed è così che tu vivi dentro me, come fuoco e cenere, come tutto e niente, come bene e il male, male da morire, sì, perché bruci dentro me, come fuoco e cenere, come vento e polvere, mi porti via un sogno pieno di poesia. Le sfide di ogni giorno, sguardo assente, inseguo il tuo ritorno, ma non riesco a credere che non sei qui con me. Salutone a Patti che ci ha segnalato Micaela con Fuoco e Cenere, con la E. E siete sempre su CRM all'interno di Deja Vu, insieme a Mary Catalano fino a mezzogiorno con voi per questo freddo freddo martedì del 7 di febbraio. Continua a piovere, ma piovono anche le vostre segnalazioni, meno male, al 3355637251. E questa volta è Fabio che ci segnala i Dandy Warhols con The Bohemian Like You. Ancora ben trovati anche a voi nottamboli che ci seguite in replica la notte alle 2 di questo programma. Ce ne sono solo 2 durante la settimana. You got a great car. Yeah, what's wrong with it today? I used to have one too. Maybe I'll come and have a look. I really love your hairdo, yeah. I'm glad you like mine too. See what looking pretty cool gets you. So what do you do? Oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard your band, 'cause you guys are pretty new. But if you dig, I'm vegan food. Welcome over to my work. I'll have a cook you something that you really love. 'Cause I like you, yeah, I like you. And it feels so bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And it feels, wow. That guy just hanging at your pad, he's looking kinda raw. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays a rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. 'Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, tra poco CRM Tiziano e Happy Radio. Cade la neve ed io non capisco che sento davvero, mi arrendo. Ogni riferimento è andato via, spariti i marciapiedi e le case e colline. Sembrava bello ieri ed io sepolto da un suo bianco, mi specchio e non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scioglie mai, neanche se deve. Cose che spesso si dicono improvvisando, se mi innamorassi davvero saresti solo tu. l'ultima notte al mondo io la passerei con te, mentre felice piango e solo io posso capire al mondo quanto è inutile odiarsi nel profondo. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scioglie mai, neanche se deve, non darsi modo di star bene senza eccezioni, crollare davanti a tutti e poi sorridere. Amare non è un privilegio, è solo abilità, e ridere di ogni problema mentre chi odia trema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente, così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa neve. Ho incontrato un sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordami, ricordami, tutto questo coraggio non è Tiziano Ferro con questo singolo l'ultima notte al mondo, il nuovo singolo per lui che ha finalmente anche un video ufficiale che si può vedere sul web. Una canzone molto calorosa, devo dire, che ha come antitesi un video molto freddo invece, quasi glaciale e quindi per nulla emozionante a quanto sembra. Gaetano Morbioli, il regista di questo video, avrà voluto giocare sull'effetto contrasto brano clip, senza però rendersi conto che non sempre gli opposti si attraggono, e quindi ecco che è venuto fuori un prodotto un po' particolare, nel senso che sembra senza enfasi e passione, tutt'altro di quello che invece è il testo del singolo. Tutta la neve che c'è rappresentata nel video non coglie il vero senso del testo, o meglio lo fa pure sembrare un po' banale. L'unico significato che è possibile individuare in questo video sembra praticamente rispecchiare solo la situazione meteorologica attuale, nient'altro. Beh, un po' pesanti, diciamo, i critici riguardo a questo nuovo video, dunque, per quanto riguarda Tiziano Ferro, però la canzone rimane sempre bellissima e lo abbiamo ascoltato quest'oggi, Tiziano, grazie alla segnalazione di Manuela al 3355637251. C'è un'altra canzone tutta italiana che adesso andiamo ad ascoltare, lui si chiama Antonello Venditti e la canzone invece ha un titolo tutto internazionale, si intitola Forever. Ancora una volta, buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto di CRM Happy Radio insieme a America Catalano, con voi sino a mezzogiorno. Lo sguardo trova sempre quello che cerca il cuore, guardando dentro me ritrovo il tuo dolore. Io ti amerò per sempre, tu mi dicevi allora. Ricordo le tue labbra, ridevano all'aurora. Quanto tempo fa

non so a voi, ma io quando ascolto i Coldplay mi portano sempre molto lontano con la mente. Coldplay con Charlie Brown è l'ultimo singolo per loro, e fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, parlavamo di quanto siamo fortunati qua in Sicilia ad avere un clima molto mite, e invece zaccate, arriva anche per noi il maltempo, sì, arriva proprio l'inverno, quello vero. E Sicilia dunque sotto la neve, con strade chiuse al transito nelle aree montane e mezzi rimasti bloccati su diverse arterie statali e provinciali. Ha nevicato sull'autostrada A19 nella tratta di Tremonzelli a Palermo, dove si è formato un sottile manto bianco soprattutto sulla corsia di sorpasso. L'autostrada è comunque tutta transitabile. Difficoltà invece agli svincoli per i centri montanari delle Madonie. Questa mattina moltissimi mezzi sono rimasti bloccati sulla statale 120 dallo svincolo di Tremonzelli fino a Ganci, Il transito è stato poi ripristinato, ma solo con catene montate. Si registrano poi pesanti rallentamenti naturalmente per quanto riguarda la viabilità nelle Madonie, e occorrono le catene anche sulla statale 643 dal bivio Scillato con la A19 fino a Polizzi Generosa, dove a tratti la neve ha raggiunto addirittura i 30 cm. Sulla statale 286 dal bivio con la statale 120 di Geraci Siculo, e sulla statale 290 dal bivio Madonnuzza di Petralia Soprana fino a Bonpietro ci vogliono dunque catene. Sulla statale 624 Palermo Sciacca Agrigento nevica a Giacalone alle porte di Palermo, dove sono al lavoro addirittura gli spazzaneve. Insomma, siamo proprio in pieno periodo invernale anche qua in Sicilia, addirittura gli spazzaneve, addirittura le catene, insomma veramente un paesaggio da lupi, ok, per non dire da orsi. Intanto noi continuiamo a riscaldarci comunque l'anima con la musica che segnalate anche voi al 3355637251. In questo caso è Giovanna che ci segnala Luciano Ligabue e dunque il suo nuovo singolo che si chiama M'abituerò. Ancora insieme fino a mezzogiorno, sempre in Catalano con voi. Un saluto anche a Nottambuli che ci ascoltano in replica a partire dalle 2 ogni martedì e ogni giovedì, per quanto riguarda il mio appuntamento che è sempre lo stesso, è sempre Déjà Vu. E ancora un buon ascolto. M'abituerò a non trovarti, m'abituerò a voltarmi e non ci sarai, m'abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. Alla fine c'è sempre uno strappo e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai cosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era. Non conta più sapere chi ha ragione, non conta avere l'ultima parola. Ora m'abituerò a non trovarti, m'abituerò a voltarmi e non ci sarai, m'abituerò a non pensarti quasi mai, sempre M Happy Radio. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. You say, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me that something, something about this place, something about lonely nights and my lipstick on your face, something, something about my cool Nebraska guy. Yeah, something about baby, you and I. It's been 2 years since I let you go. I couldn't listen to a joke or rock and roll. Muscle cars drove a truck right through my heart. On my birthday you sang me a heart of gold, with a guitar humming in overload. This time I'm not leaving without you. Oh, oh, oh, oh. Sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we made love the first time, and you said to me that Lady Gaga a CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu, e anche per Lady Gaga fecondazione assistita, proprio così, purché il donatore non sia uno qualunque ma un italiano, meglio ancora se siciliano. Pensate un po', la dichiarazione shock della pop star lanciata in radio a fine gennaio sta facendo il giro dei giornali di gossip. Lei ha detto: voglio un figlio da un italiano, possibilmente un siciliano, avrebbe puntualizzato Lady Gaga, che ha in progetto di diventare mamma programma entro l'anno. La bizzarra intenzione sarebbe stata manifestata dalla signora Germanotta in occasione del lancio del suo ristorante italiano a Manhattan, il Joan Trattoria, che ha progettato in collaborazione con il padre Joseph e che presto aprirà i battenti. Certo è che Lady Gaga, proprio come Madonna, non ha mai nascosto le sue origini italiane e l'amore per il bel paese. Per la cantante di Poker Face l'italianità è un valore assoluto, sembra. L'artista ha sempre dichiarato di essere molto legata all'Italia e di considerare in particolare la Sicilia come la sua terra, e noi di questo siamo onorati. Dice: i miei nonni sono siciliani e sono cresciuta con loro e con i loro racconti. In casa ho tantissimi oggetti che mi ricordano le mie origini sicule. Prima dell'estate scorsa, quindi in occasione del suo passaggio a Roma per partecipare alla manifestazione conclusiva dell'Europride 2011, Lady Gaga avrebbe consultato diversi esperti per sottoporsi a un intervento di fecondazione assistita. Alla fine la sua scelta sarebbe ricaduta su un luminare del settore come Severino Antinori. Interpellato da numerosi siti e giornali, il professor Antinori non ha voluto commentare la notizia, sentenziando che insomma questa cosa è una cosa che non deve essere pubblicizzata non più di tanto, e ha detto anche che non parla mai dei suoi pazienti pubblicamente e non lo farà neanche con Lady Gaga. Comunque sia, queste sono le ultime indiscrezioni che riguardano questa artista, che a quanto pare è innamoratissima dunque del nostro bel paese, soprattutto di noi siciliani, e di questo siamo veramente onorati. Intanto continuiamo ad ascoltare la musica e arriva Guns N' Roses, grande singolo quello che stiamo per ascoltare, e Guns N' Roses che sono sempre di scena, sempre super attivi nonostante siano passati tanti anni, e proprio Alex Rose, ovvero il leader indiscusso dei Guns N' Roses, proprio ieri ha fatto 50 anni, pensate un po'. Mamma mia come passa il tempo, ma loro sembrano rimanere sempre giovani, sempre frizzanti, tant'è che hanno all'attivo qualche bel programmino da portare avanti nei prossimi mesi, insomma, e ne parleremo fra poco. Intanto gustiamoci questa splendida canzone, Since I Don't Have You, Guns N' Roses. Don't have you. Guns Roses, la grande voce di Axl Rose, che compie 50 anni, proprio l'ha compiuti ieri, e li compie anche nel segno del rock. Sono proprio questi gli anni che compie Axl Rose, soprattutto, cantante leader indiscusso dei Guns Roses, anni che nel suo caso hanno lasciato il segno su un fisico duramente provato da eccessi di ogni tipo, ma ancora vedono intatta la voglia di correre sul palco. Infatti Guns Roses stanno per iniziare un nuovo tour che li porterà anche in Italia il 22 giugno in occasione dei Gods of Metal. Dunque, nato il 6 febbraio del 62, grazie al successo dei Guns Roses, Axl Rose è stato uno dei personaggi più noti e amati a cavallo tra gli anni 80 e 90, considerato all'apice della sua notorietà anche un sex symbol. Oggi deve scontrarsi tanto con il passare del tempo quanto con le sue bizzarrie, che lo hanno portato a stravaganze e piccole follie come capelli trecciolinate e insomma iniezioni di botox per cancellare le ruche, e senza contare qualche chilo di troppo. Nonostante tutto rimane comunque amatissimo e considerato un frontman dal carisma raro. Anche per questo la curiosità per rivederlo all'opera in Italia è molto forte, tanto più nel momento in cui si parla con insistenza di una probabile reunion del gruppo ormai ridotto a solo ad Axl Rose da anni. Nel nuovo tour potrebbero ritrovare posto anche Duff McKagan e Izzy Stradlin, e se poi alla fine anche Slash fosse disposto a sotterrare l'ascia di guerra, si potrebbero ritrovare proprio tutti quanti insieme veramente e fare una bella carrambata in piena regola. E vabbè, importante che comunque c'è sempre di scena questo mitico gruppo, magari in questo momento solo di nome, The Guns Roses. Intanto noi continuiamo ad ascoltare la musica, quella che ci segnalate voi, e ritorniamo alla musica italiana. Sì, è lei, Laura Pausini. Lo so che molti di voi la stavano aspettando già da un pezzo, non manca neanche questa mattina. Bastava il nuovo singolo. Sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. Bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende e lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto? Camminata in centro in un pomeriggio bianco. Bastava prevedere il tuo fastidio, fare conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Anche se è poco quello che capisci dopo. Bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere per terra. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci Happy Radio. CRM Piredio con il singolo Tomorrow, richiesto da Adele al nostro numero magico il 3355637251, mentre in Sicilia c'è una coperta di freddo praticamente, con i rilievi imbiancati, tutti innevati, e piogge e grandinate sparse, lo sappiamo tutti quanti ormai, lo sentiamo soprattutto sulla pelle quanto freddo fa. La temperatura massima è di 11 gradi che si raggiunge a Catania, mentre a Enna si registra una massima di 3 gradi e una minima di 4 gradi. Oltre all'Etna imbiancato da settimane, oggi anche il bosco della Ficuzza vicino al Marineo è coperto di neve. Disagi per la neve e il ghiaccio si sono verificati in diverse strade statali siciliane, ma in generale la viabilità non è stata compromessa più di tanto, anche se in alcuni tratti c'è l'obbligo delle catene, come dicevamo stamattina, soprattutto sui Nebrodi e sulle Madonie, sulle Alte Madonie. Quindi mi raccomando, se non avete le catene vi conviene comprarle se andate in giro per le Madonie e per i Nebrodi, ok? Intanto continuiamo con il nostro appuntamento. C'è la musica di Lionel Richie, un grande successo per lui, che si chiama Endless Love, veramente molto molto di vecchia data, però riproposto in una nuova versione insieme a una voce strepitosa che è quella di Shania Twain. e allora li sentiamo tutti e due. Shania Twain, Lionel Richie, Endless Love. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And I want to share Jabu su CRM Happy Radio. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To